Sono molto felice di, come dire, tenere questa piccola cattedra su Maria Maddalena. In realtà è una cosa che sento da un po' di tempo, nel senso che Maria Maddalena è arrivata a me e ovviamente gli odori hanno fatto da, mi hanno traghettato da lei o lei è arrivata a me attraverso gli odori. Per chi non mi conosce, io sono anche una tessitrice olfattiva, quindi diciamo che faccio un po' da ponte, un po' come faceva lei, tra gli odori e me stessa e le anime che sono vicino a me. Chi era Maria Maddalena? Beh, di Maria Maddalena noi sappiamo qualcosa perché i Vangeli canonici tradizionali ci hanno, come dire, insegnato che era una prostituta, una meretrice, che in qualche modo si è avvicinata a Gesù, che da quel momento lì in poi ha iniziato a seguire le parabole di Gesù e la ritroviamo nel trittico sotto alla crocifissione, e in più è stata la prima testimone della resurrezione di Gesù. Questo è quello che i Vangeli canonici in qualche modo ci dicono di Maria Maddalena. Nei Vangeli gnostici noi troviamo delle testimonianze estremamente importanti. Oltretutto sono Vangeli che sono stati in realtà ritrovati recentemente, nel 1945, in Egitto, ad opera di un paio di contadini che stavano semplicemente facendo il loro lavoro di arare la terra attraverso una zappa, hanno colpito una giara e dal di lì c'è stata questa grandissima scoperta. Quindi da quel momento lì in poi anche la figura di Maria Maddalena ha avuto possibilità di essere scoperta in un modo o altro e quindi narrata in un modo o altro. Vangeli gnostici. Noi sappiamo che sono 52, sappiamo che in essi sono contenuti i Vangeli di Filippo, i Vangeli di Tommaso, e erano contenuti anche i Vangeli di Maria Maddalena. Di questi non abbiamo conservato nulla, ma sappiamo della sua esistenza da alcuni frammenti, e questo ad esempio ne è un esempio, di Vangeli che citano, il Vangelo di Maria Maddalena. Quindi diciamo che è stata testimone, partecipe, una donna che si è preoccupata di dare una sua narrazione di quello che stava avvenendo in quel momento. Ma che cosa stava avvenendo nel momento in cui la vita sua e la vita di Gesù si sono incrociate? I Vangeli gnostici, lo gnosticismo cristiano nasce ad Alessandria d'Egitto, fondava su una dottrina più antica, su un credo più antico. Non solo, ma anche Filone d'Alessandria nel primo secolo avanti Cristo ci parla di un gruppo di terapeuti che vivevano vicino al lago Meris. Nei pressi di Alessandria e che poi è una comunità che viene identificata come gli Esseni, di cui faceva parte proprio anche Gesù, quindi proprio come cultori di un credo che in realtà era l'emblema, era l'unione di tantissime cose che arrivavano anche da prima. Alessandria d'Egitto è un altro luogo importante per iniziare a comprendere che cosa voleva dire vivere in quel momento. Alessandria d'Egitto è stata una città estremamente importante sotto tanti punti di vista. Ricordiamo Ipazia, ma non solo per questo. È stata una città anche molto importante dal punto di vista profumiero. Non solo aveva due porti che permettevano l'ingresso di materie prime dall'Oriente, è stata una città estremamente importante per la via delle spezie, ma non solo, è stata una città all'interno della quale convivevano quattro civiltà diverse: la romana, la greca, l'egizia e l'ebrea. E quindi c'era molto fermento, c'era assolutamente molto fermento dal punto di vista culturale, dal punto di vista civile, oserei dire, e da quello che in realtà entrava all'interno di questa città. che per 3 secoli è stata veramente un centro importantissimo. Le materie prime dall'Oriente arrivano, iniziano ad arrivare le spezie, iniziano ad arrivare gli incensi, le resine, e qui iniziamo già a collegarci con l'essenza del nardo. Chi in qualche modo ha permesso di non sottovalutare anche in quel momento storico l'ingresso di queste materie prime estremamente importanti e il loro utilizzo nella quotidianità, e mi riferisco alle essenze, sono stati sicuramente gli Egizi. Gli Egizi avevano una concezione completamente diversa rispetto a quello che noi risulta del loro utilizzo dell'olfatto e delle essenze. Ci hanno sempre raccontato che gli Egizi sono stati i primi ad utilizzare gli oli essenziali, li utilizzavano durante le mummificazioni, venivano utilizzati ovviamente dai faraoni per i loro rituali sacri e in più venivano utilizzati come belletto, e quindi sì, ovviamente cita Cleopatra. Quindi come belletto, come profumeria, come belletto da utilizzare, dando proprio una connotazione, oserei dire attuale, di come veniva utilizzato il profumo. In realtà, gli Egizi avevano un modo completamente diverso di approcciarsi alle essenze. Per loro la conoscenza giungeva per metà attraverso l'olfatto. Quindi non era semplicemente una cosa che veniva utilizzata nella quotidianità così. Era in realtà un mezzo attraverso il quale loro entravano in stretta connessione con una parte sottile vibrazionale che permetteva loro di conoscere, ma non solo, che permetteva loro di sentire il divino, di sentire la dea, perché bisogna anche dire questo, e di in qualche modo entrare in connessione, in vibrazione con questo tipo di energia. Quindi un olio essenziale era molto di più di quello che in realtà c'è stato passato sino ad ora. Dico questo perché scopriremo che attraverso alcune immagini e alcuni studi, Maria Maddalena è associata al culto di Iside. Ed ecco che ritorniamo di nuovo all'interno della civiltà egizia. Questa cintura che voi vedete nel dipinto che ritrae Maria Maddalena, che in realtà ha una cinta e ha un contenitore nella mano, perché era una sacerdotessa ed era una sacerdotessa di Iside, il cui compito era quello di accompagnare i defunti attraverso i profumi. Il nome per questo tipo di sacerdotessa è Mirrofora o Mirrafora, quindi colei che conosce i profumi, che conosce le essenze e che attraverso queste crea il ponte e fa da ponte, accompagnando i defunti, quindi ungendoli. E nei 3 giorni successivi al decesso, attraverso canti e attraverso unzioni, creavano proprio il ponte energetico attraverso il quale l'anima potesse spiccare il volo e accogliere la nuova strada. Quindi questa cinta che noi vediamo insieme a questo contenitore che appunto conteneva queste resine che servivano, questo unguento che serviva per profumare il corpo, ci stanno proprio a simboleggiare Maria Maddalena come una sacerdotessa di Iside. Siamo ancora ad Alessandria d'Egitto, siamo lì dove questi due porti traghettano dall'Oriente, abbiamo detto, materie preziosissime, tra le quali appunto anche le spezie, il nardo e la mirra. Diciamo anche questo, il nardo è, ve lo voglio far vedere perché è una pianticella molto graziosa, appartenente al mondo botanico della Valeriana, che nasce nelle pendici dell'Himalaya. Il suo olio essenziale si estrae dal rizoma, quindi dalla radice della pianta. Già raccogliere questa pianta è qualcosa che richiede un viaggio, assolutamente un viaggio, non è sicuramente una raccolta semplice da fare. E in più, di solito i rizomi o le radici hanno una resa veramente estitica a livello di essenza, quindi serve veramente tanta materia prima per far sì che abbiamo una quantità consistente da ungere il capo e i piedi, perché così ci venne riportato. Questo è un altro elemento che vi voglio offrire per intanto anche pensare a Maria Maddalena come una donna comunque facoltosa, una sacerdotessa, una sacerdotessa di Iside, e il nome Maria, che è diventato la latinizzazione di Miriam o Mariam, che in realtà era il nome con il quale venivano proprio indicate le sacerdotesse. Era una donna facoltosa che poteva permettersi di avere anche una quantità consistente di questa materia prima per ungere il capo e i piedi di Gesù, così come ci viene narrato. Quindi anche questo è un altro elemento che comunque si discosta moltissimo da quello che noi siamo appunto soliti conoscere di questa figura, di questa donna. Ritorniamo un passo indietro, appunto, sacerdotessa, culto di Isite, le mirrofore erano proprio comuni all'interno di culti di molte divinità, anche di Nanna stessa, ma questo, diciamo, rito che Maria Maddalena compie in unione con Gesù. Che tipo di rito è? All'interno dell'ognosticismo vediamo appunto che ci sono diversi riferimenti al culto di Iside, nel senso che questa vecchia e antica dottrina di cui si fa riferimento fonda proprio le radici lì. C'è un bellissimo testo che io vi invito a leggere, che è Rosa Mistica, perché qui vediamo proprio l'autrice è stata anche brava nel ovviamente trovare dei punti di contatto. Oltretutto, durante proprio il periodo di Re Salomone, a cui si fa riferimento proprio storicamente quando si parla di gnosticismo cristiano e quindi anche di ebrei esseni, c'è proprio la certezza che il culto non fosse soltanto nei confronti di una divinità maschile, ma anche della sua compagna, della divinità femminile. Diciamo che il primo esempio, oltre ovviamente al matrimonio sacro di Iside ed Osiride in qualche modo, quindi alla coppia divina per eccellenza, poi si ha anche nella coppia Re Salomone e Makeba, la regina di Saba. Nel Cantico dei Cantici si parla di loro due e lì si fa riferimento all'utilizzo proprio dell'essenza del nardo e della mirra. Come vi ho detto prima, appunto, il nardo è un'essenza estremamente pregiata e a livello sottile, vibrazionale, ha secondo me dei messaggi molto importanti e molto belli che noi ci portiamo dietro, perché sono convinta del fatto che gli oli essenziali non siano solo semplicemente delle materie terapeutiche che possono permetterci di star bene, ma che abbiano una vibrazione e che abbiano captato dall'universo l'energia e la storia, che li ha accompagnati. E che in qualche modo sono arrivati fino a noi. Quindi già all'interno proprio del Cantico dei Cantici vengono citate queste due essenze, descrivendo proprio il momento del matrimonio mistico tra Re Salomone e Makeba come aria diffusa di nardo nei templi e all'interno della stanza in cui avveniva la loro unione, questa essenza di mirra. Perché energeticamente sono importanti queste due essenze? Il nardo è il simbolo della gratitudine, proprio per quello che vi ho narrato prima, cioè la difficoltà che richiede la raccolta di questa pianta e soprattutto raggiungere le pendici dell'Himalaya, raccogliere la pianta, estrarre l'essenza che comunque è veramente scarsa all'interno delle radici. Quindi è un viaggio ed è un viaggio impervio che però porta ad una buona riuscita, porta a qualcosa, no? Ed è un po' la metafora della vita. Quindi è l'olio associato di solito alla gratitudine, ma non solo, è anche un olio che energeticamente simboleggia le antiche memorie e vedremo anche il perché. Sicuramente uno dei messaggi che ci possono giungere è che essendo una delle essenze più antiche che noi conosciamo, sicuramente porta con sé veramente tutta la storia dell'umanità. La mirra. La mirra è una resina meravigliosa. Spero che, insomma, se non avete presente queste essenze, mi dispiace di non avervi davanti a me per potervele far annusare, però immergetevi e secondo me sentirete anche un po' dentro a questa olfazione che farete o se le avete a disposizione, prendetele un po' tutta la storia che vi sto raccontando, perché ne sono comunque pregne. La mirra è una resina associata a Madre Terra. Oltretutto, la sua componente chimica in qualche modo si avvicina molto alla componente chimica del latte materno. Quindi, di solito la mirra simboleggia il materno, il femminile in questo senso, e l'attaccamento proprio con la madre terra, quindi con il nutrimento. Ed è bellissimo vedere come proprio queste due essenze in qualche modo siano state scelte per essere testimoni di eventi anche estremamente importanti. E lo stesso nardo con la stessa mirra sono presenti anche nell'unzione che Maria Maddalena fa a Gesù, e oltretutto la mirra l'accompagna al momento in cui lei giunge al sepolcro, deve ungere il corpo di Gesù e deve compiere quello che è all'interno del suo compito di sacerdotessa. Il rituale che in qualche modo noi abbiamo delle tracce di questo rituale, ma non è stato ovviamente definito in quanto tale, ma si può dedurre ovviamente leggendo i Vangeli apocrifi che ci permettono di dare un occhio diverso, e soprattutto quelli gnostici. È un rituale che fa parte di un rituale molto più vasto nunziale, che è lo Hieros Gamos. Lo Hieros Gamos era un rituale che consisteva nell'unione sessuale tra una sacerdotessa e un sacerdote, oppure tra un futuro re e una sacerdotessa della dea, che in quel momento incarnavano la divinità, ed era una pratica molto usata in passato, soprattutto quando doveva essere incoronato un re, perché attraverso quest'atto in cui veramente ci si incarnava nella divinità e attraverso l'atto sessuale si arrivava al matrimonio, veramente alla fusione nell'uno, questo rito dava il diritto di regnare soltanto dopo averlo compiuto. La stessa cosa possiamo dire in qualche modo di Maria Maddalena, quando lei, attraverso la sua l'unzione, in qualche modo ristabilisce quest'unione, questo Hieros Gamos con Gesù. Ma allo stesso tempo possiamo anche trovare nelle immagini delle nozze di Cana, che è diciamo un altro racconto che ci giunge, in cui Gesù trasforma l'acqua in vino, è il simbolo di questo matrimonio mistico, ovviamente in una chiave estremamente nascosta. Tutto questo per dire che ci fondiamo su un culto che in realtà è un culto che parla di un'energia generatrice, ma anche di un'energia di unità, di un'energia di nutrimento e di sostentamento. E questo stava alla base di tutto, perché in realtà entrambi erano immersi all'interno di questa dottrina iniziatica, filosofica, che aveva preso piede in questa città, ma che in realtà aveva il respiro ancora di una civiltà come quella egizia, tant'è che i documenti ritrovati dei Vangeli gnostici sono papiri scritti in lingua copta. La lingua copta è la parte finale della lingua egizia. Ovviamente c'è anche tutta una narrazione che parte dopo la morte di Gesù, in cui Maria Maddalena parte con la sorella, con il fratello. E si dirigono verso la Provenza. Sapete che il culto di Maria Maddalena in Francia è estremamente sentito. C'è chi sostiene che nel momento in cui Maria Maddalena sia giunta lì, abbia in realtà per i successivi 40 anni, oltre a portare avanti la novella che in qualche modo di cui era stata testimone e che desiderava veramente, ecco, questa è la Giotto, è un quadro di Giotto che appunto ci fa vedere l'arrivo di Maria Maddalena e delle altre persone che erano con lei in Francia, in Provenza. Lei poi si rinchiude in questa sorta di grotta alla Saint-Baume, dove qui sta per 40 anni, e per 40 anni sembra che lei si sia dedicata all'arte profumiera. La profumeria ha bisogno dell'alchimia, e l'alchimia è figlia degli Egizi anche in questo caso. Le prime alchimiste sono state donne, al di là di Cleopatra, insomma, che lei è stata la prima, forse più conosciuta. Per dire un nome che conosciamo un po' tutti, che in qualche modo ha iniziato a considerare veramente la profumeria da un punto di vista un po' più imprenditoriale, utilizziamo un termine più moderno. Qui vediamo Maria Maddalena appunto che predica, quindi che porta avanti quello che lei ha visto, quello che lei ha imparato e quello che stava all'interno del loro insegnamento. Credo che comunque questa donna avesse dentro di sé un'anima non solo profumata, ma talmente tanto allenata attraverso questa esercitazione delle essenze ad una vibrazione alta che sarebbe riuscita lo stesso a captare, al di là di questo racconto, secondo me, la sostanza delle stelle e a metterla all'interno del suo unguento. Io mi fermerei qui. Vorrei fare una piccolissima aggiunta. Sì. Magdalena o Magdalene, Magdaleder, il nome Maddalena viene da Magdal o Migdal, che significa torre, e identificava le antiche regine, la discendenza da Ishtar, dalla prima grande regina dragone, queste torri che venivano messe sul capo delle regine per indicare qualcosa che era dentro nella testa. Ci sono molte statue e immagini di queste regine con la torre in testa, e ha la stessa radice di amigdala, che è una ghiandola all'interno del capo, e chissà che non sia quella ghiandola collegata all'olfatto. Io questo non lo so, magari ce lo dici tu, ce lo saprai dire tu. Però mi sembra una coincidenza strana che una ghiandola all'interno del capo, che forse ha a che fare con le essenze o con la capacità di trasformare le essenze in informazioni, di decodificare, no? Il profumo, trasformarlo in informazioni, sia nel capo e si chiami come Maddalena. No, Ecco, infatti non è questo. un caso ed è il centro delle emozioni, quindi in qualche modo c'entra assolutamente. Ecco perché quando noi annusiamo abbiamo una immediata connessione con emozioni e con ricordi, proprio perché l'olfatto è l'unico senso che utilizzando anche questo canale è diretto, non ha intermediari e non ha filtri, quindi assolutamente così. Una curiosità, se possibile, Certo. l'essenza di nardo ha Che cosa assomiglia? Perché Un una po'. radice mi fa pensare a un muschio, a un come L'essenza di odore. nardo ha un odore tutto suo, nel senso che sul fondo ha un po' la sensazione dell'incenso, ma anche la sensazione della terra. È un odore terroso, ma è un odore che ti porta giù. Come il vetivè, che ad esempio anche il vetivè è estratto da una radice, sono quegli odori che proprio ti fanno entrare nella grotta immediatamente. Quindi la sensazione che mi verrebbe da passarti è questa, sicuramente un po' può ricordare l'odore della terra, ma anche questo impastamento resinoso, incensoso che in qualche modo ti porta in un'altra dimensione. Grazie, perfetto. Grazie a te. Quindi, cioè, se potete fatelo, annusatelo. E secondo me non ve lo dimenticherete più perché è un odore talmente tanto particolare. Poi un'altra cosa, ad esempio, che si può aggiungere è il discorso del lignaggio della rosa. La rosa era il fiore simbolo di Iside, quindi in qualche modo il lignaggio della rosa e il lignaggio di Maria Maddalena sono un po' è il lignaggio che ci portiamo dietro da lì. Quindi veramente ci sono tante cose che, se avete voglia, immergetevi, perché sono estremamente olfattive, ma scoprirete in realtà una linea meravigliosa, una linea rossa meravigliosa. È stato bellissimo, ma ha suscitato molta curiosità. Grazie davvero, Grazie grazie, a te, Carlo, Giulietta, molto. grazie. È proprio un po' come deve essere una scuola, no? Che suscita, che fa andare avanti, non si ferma a quello che viene detto, ma uno sceglie dei rivoli, no? Da andare ad esplorare. Proprio così Sì. è stato questo, per me almeno. Sì, Sì, per me. perché poi intorno veramente a questa figura ci sono diverse narrazioni e sono tutte per me molto, alcune vabbè, abominevoli, altre estremamente interessanti che veramente aprono tanti cassetti e tanti puntini si riuniscono ad altre cose che noi conosciamo e quindi è bello poter dare anche un volto nuovo a questa donna, che secondo me veramente Certo. è stata una delle prime a fare del profumo, comunque delle essenze, un'arte veramente sottile. Poi dopo c'è stato il Degarda, poi insomma ci sono state altre che hanno seguito alla sua scia, ma lei era una donna molto potente sotto questo punto di vista. E non Io solo. ho dei dubbi sul fatto che si dica di Magdala perché è nata a Magdala. Io credo proprio che Magdalena fosse l'aggettivo che la identificava come una regina o quantomeno come una sacerdotessa Sacerdotessa. discendente dal lignaggio regale delle antiche regine mesopotamiche.